Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Nel vasto campo della robotica c'è un ramo di ricerca che si definisce robotica indossabile. E all'interno di questa cornice ci sono due direzioni diverse, una più pesante, nella quale ci si occupa per esempio dei cosiddetti esoscheletri, quelle apparecchiature che avvolgono il corpo di una persona, che magari ha gravi, se non totali, problemi di deambulazione e gli permettono di camminare. Ma c'è anche una direzione di ricerca più soft, nella quale i dispositivi robotici sono molto leggeri e davvero indossabili. Dei guanti, per esempio. L'Università di Siena è capofila di un progetto europeo che si chiama Wear Up, che ha come obiettivo progettare una comunicazione tattile per soggetti affetti da gravi deficit percettivi, tipicamente ipovedenti e non vedenti. Quello che si vuole raggiungere è aiutare queste persone a muoversi con maggiore autonomia e maggiore sicurezza in vari ambienti, compreso quello urbano. Domenico Pratichizzo, docente dell'Università di Siena, coordina il progetto, lo ha intervistato per noi Federico Pedrocchi. Sentiamo. Siamo in un'area urbana, in strade, con un sacco di gente, negozi, posti, portoni di case, e stiamo parlando di un'assistenza a persone che sono o non vedenti o ipovedenti. Allora, che cosa potranno avere a disposizione? Sì, queste persone potranno avere a disposizione due dispositivi indossabili, in particolare li indosseranno sugli avambracci o addirittura sulle mani, che saranno in grado, attraverso segnali di tipo tattile, di guidarli attraverso in questo ambiente urbano. In che modo? Ecco, loro hanno il bastone o un cane guida, però sia il bastone che il cane guida non hanno idea di dove l'ipovedente vuole andare. Sì. Per cui loro dovrebbero essere guidati da questi nostri dispositivi. Cioè hanno qualcosa che gli segnala sulla mano, per esempio? Ad esempio sull'avambraccio, attraverso delle vibrazioni, o attraverso anche, stiamo sviluppando dei dispositivi quasi come se fosse una carezza o un pizzicotto, diciamo così, dei segnali tattili diversi, che in qualche modo possono guidarlo a destra o a sinistra. Come avviene il meccanismo, appunto? Perché è una guida in remoto? È una guida in remoto dove c'è un volontario, un parente, un amico che da casa li guida. In particolare questa persona vedrebbe quello che vede il cieco o l'ipovedente attraverso una telecamera montata sugli occhiali o montata sulla cravatta. E poi attraverso il computer, attraverso un joystick, attraverso la tastiera, può mandargli questi segnali tattili e guidarlo a destra o a sinistra. La grande motivazione di questa ricerca è che i sistemi che sono attualmente disponibili, il navigatore che può essere utilizzato con gli auricolari per la persona non vedente, è sicuramente un qualcosa che guida, però crea dei grandi problemi all'ipovedente. Il primo: queste persone devono utilizzare degli auricolari, e gli auricolari per gli ipovedenti sono difficilmente utilizzabili, perché loro vogliono avere l'udito libero. Sì, perché lei sta dicendo potrebbero ricevere via audio delle indicazioni da navigatore del tipo gira a destra e dopo 5 metri c'è la farmacia. Però lei dice in questo modo l'audio dell'ambiente lo vengono a perdere, e questo a loro non va assolutamente bene. Non va assolutamente bene. Io l'esempio che faccio sempre quando racconto questa cosa è come se una persona vedente andasse in giro in una città che magari non conosce bene, con un giornale aperto davanti agli occhi. Certo. È chiaro che ha una percezione di quello che gli sta intorno molto molto diversa. E beh, insomma, certo, è molto diminuita. Questo risolve anche un altro problema, perché molto spesso loro vanno in giro, non so se le è capitato di vedere, con queste persone sotto braccio, che sono i volontari. Sì. E questa per loro è una cosa molto importante, primo perché nella guida usano il tatto, cioè comunicano con il volontario tattilmente, e l'altra cosa, hanno una persona cara, una persona, diciamo, che non è un satellite, che li guida e gli dice c'è un pericolo, attenzione, eventualmente, no? Sì, però certo in questo modo c'è anche un servizio che può essere più efficiente, perché non c'è bisogno di una persona proprio che accompagni fisicamente il non vedente, insomma, quindi. E anche per il volontario è più semplice dedicare un'ora di tempo, che è un'ora di tempo effettiva, non richiede andare in centro, parcheggiare la macchina, raggiungere l'ipovedente, che vuol dire almeno aggiungere un'altra ora di mobilità. Torniamo in studio per salutarci e darci appuntamento a domani. Buona serata.